Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Sono pronto a scommettere che l'oggetto di cui parleremo stasera lo incontreremo presto nella nostra vita quotidiana, eppure a raccontarlo in due righe sembra fantascienza. Parliamo di quella che i ricercatori dell'IIT, Istituto Italiano di Tecnologia, chiamano semplicemente etichetta dinamica. Ma in pratica è un piccolo computer con tanto di schermo che invece di essere assemblato viene letteralmente stampato, per esempio sull'imballaggio di un prodotto come una bottiglia di succo di frutta o appunto su un'etichetta da applicare in seguito, direi, a qualunque cosa. Ci facciamo spiegare tutto da Mario Caironi, ricercatore dell'IIT, tra gli autori di questa che senz'altro possiamo definire un'invenzione. Buonasera Caironi. Buonasera, buonasera. Allora, che cosa fa questa etichetta? Parliamo di una roba come l'etichetta che sta sulla bottiglia appunto di succo di frutta, per far capire i nostri ascoltatori. Sì, sostanzialmente, invece di essere una semplice etichetta che mostra un testo statico, uguale sempre a se stesso, abbina anche una parte di testo che può essere modificata nel tempo. Essenzialmente è questa la sua funzione. Esattamente, come se potessimo far visualizzare ad uno schermo che si trova non importa dove delle parole piuttosto che delle immagini, no? Come lo schermo di una TV in un certo senso. Sì, non è diciamo pensato come un vero e proprio schermo di una TV, ma è per dare un grado di libertà ulteriore nel disegnare le etichette, per accomodare sulla stessa area informazioni sempre maggiori che possono essere utilizzati sia per marketing ma anche per dare al consumatore informazioni che riguardano il prodotto e le sue proprietà nutritive e la sua origine, per esempio anche la sua storia in termini di conservazione, no? Piuttosto che altri aspetti di questo genere, immagino. Esatto, sì, sono molte informazioni che ormai seguono i prodotti durante il loro tempo di vita, dalla produzione al consumo, e si fa sempre più difficoltà a averli sulla stessa etichetta e quindi questo permetterebbe di aumentare il grado di informazione associata all'origine di ogni singolo prodotto. Ecco, questo è uno degli aspetti, quindi immaginiamo un'etichetta che ha un testo che può cambiare, lampeggiare o cose di questo genere, ma poi si può applicare anche ad altri oggetti che non c'entra niente con quello che troviamo sullo scaffale di un supermercato. In realtà questo appunto è un piccolo computer con uno schermo, è anche in grado di comunicare, giusto? Ecco, ci spieghi intanto poi anche un po' come è fatto. Sì, allora l'idea principale è nata da aver capito dalla necessità di marketing. Chiaramente, però, soddisfando questa tendenza, abbiamo messo sostanzialmente assemblato parti elettroniche che possono soddisfare ben più ampie funzionalità. Ecco, parti elettroniche, voi stampate perché usate delle tecnologie simili a quelle della stampa a getto d'inchiostro, per capirsi, o comunque tecnologie tipiche della stampa, e voi stampate dei circuiti in pratica di materiale semitrasparente. Come funziona? Esatto, sì, questo è appunto uno dei punti centrali. L'obiettivo era non solo di dare una funzionalità elettronica all'etichetta, perché potendo uno potrebbe appiccicare un piccolo schermo, ad esempio un schermo a cristalli liquidi, però questo diventerebbe un oggetto che sostanzialmente non è integrato in questa etichetta e dovrebbe essere trattato come un rifiuto speciale. Quindi l'obiettivo invece era di utilizzare qualcosa che fosse integrato nell'etichetta sia in fase di produzione, quindi dove potesse essere fatto quindi attraverso tecniche di stampa derivate dalle stesse tecniche che si usano ad oggi per stampare le etichette, certo, e potesse seguire il tempo di vita del prodotto fino allo smaltimento, quindi materiali anche loro riciclabili, fatto di plastica. Questi circuiti sono fatti di plastica, esatto, anche lo schermo è tutta plastica. Non c'è nessun elemento che debba essere separato o essere trattato come un rifiuto speciale. Questo è un altro elemento molto importante che caratterizza l'etichetta che abbiamo proposto. Ecco, ci siamo dimenticati di dire che c'è dentro anche la fonte di energia in questa etichetta. Sì, esatto, quindi insieme ai circuiti noi stampiamo anche dei piccoli moduli fotovoltaici che forniscono energia all'etichetta per funzionare. Che costa? Allora, questo è chiaramente non dipende dai numeri, diciamo, caso di produzione di massa. In caso di produzione di massa è sempre difficile avere un costo preciso per tecnologia non sviluppata, però l'obiettivo è di avere un'etichetta che possa costare intorno ai 10 centesimi. Intorno ai 10 centesimi. Senta, allora, Allora, voi avete brevettato questa tecnologia, un brevetto italiano, e adesso state cercando finanziamenti, giusto? E avete, o meglio, fatto domanda di brevetto per la precisione, state cercando finanziamenti per passare alla fase industriale, no? Non c'è bisogno di dire che sia rilevante questa vostra ricerca, secondo me. No, esatto, quindi tutto questo, l'idea, la proposta l'abbiamo messa in una domanda di brevetto che è stata depositata un paio di mesi fa, e adesso quindi esattamente siamo in cerca di chiunque fosse interessato a sviluppare la tecnologia per farla diventare un prodotto reale nel più breve tempo possibile e che si possa attraverso una partnership riuscire ad arrivare ad un prodotto reale. Va bene, grazie Mario Caironi, e insomma, industriali italiani, fatevi avanti, speriamo che non siano giapponesi o americani ad arrivare per primi. Buonasera, grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.